dopo questa. Sì, no, io lo so anch'io. Se no, sabato la domenica, va quando in casa. Di dottor Ayane, mi dai. Oh, se lo mette. Alla calata, questo ci vuole un minuto. Mi te lo prepari già il BL, tutto quanto. Poi tu ti fai tutto, tu sai. Non è che te lo fai tutto da... da dove parte, butti giù il capo via, butti il vecchio lo butti giù e vai. E se non lo utilizzo è la stessa cosa. Ma vuoi tutta facettata, non è così, Antonio, vuole facettata sul tubo, con una strada facettata, poi vuole fatto passare come ho fatto io l'ho fatto passare dentro il tubo. Come cacchio si chiama? Quello dell'acqua, là, quello che fa scaricare l'acqua, il fluviale. Però lì ho messo le fascette di quelle un bel grande, mi ero legato al tubo e gliel'ho passato dietro, non si vede nemmeno il filo. Io non sa così grave già. Se uno è abile lo fa subito il lavoro. Se devi andare a suonare gli appartamenti, così io perlomeno ho fatto così da voi. Grazie per avermi mettere i piani, io ho dovuto suonare gli appartamenti e chiedere la cortesia di far piazzare il filo, perché se no poi sbatte, dà fastidio col vento, si consuma. Lo so. Vabbè, si fa, cosa fa? Non si tutti di no a prendere una cosa del genere. Uno non mi ha fatto entrare, ma è andare la fascetta che la bovina è dura. E te l'ha messa? Cosa ne so, è proprio quello che c'è mansardo, non so se l'ha messa. Ma tanto quella lì non è che rivolta saluta, perché io ne ho preso la precauzione e l'ho fascettata da sopra, da dove scenderla al tetto, ho fallato la fascettata lì dove sono arrivato, che qui con i vasi giossi, e ne ho preso la fascetta, perciò se la mette quello lì, è bene, se non pazienza, tanto tra uno e l'altro c'è. Un po' di pazienza, tanto tutto un giorno mica fa questa cosa, non è che si tutti ridito, rompi le scatole, ma è solo un giorno, che vai, me la fa piazzare, e vai, veloce. Ma lo sai come ho fatto? Gli ho fatto passare, allora il filo glielo faccio tutto quanto attorno al coso, al palo. Poi gliel'ho fatto passare sul tirante e gliel'ho fatto anche sul tirante, sino alla discesa giù per non toccare in terra e cose. Tutto ho fatto passare sul tirante, l'ha stratto dal tirante. Sì, no, già va bene. A voi tanto ti durerà, quelli durano un bel po', durano, non sei tutti i giorni facendo queste cose. Io tra 10 anni cavo tu, se c'è ancora gente ne metto un'altra roba, non ho utilizzato nemmeno quella, quando sta lì sta fa pito la metto nuova. Sono ti va bene, cosa metterà? Tu sono sempre a tenere rigenerate, anche se va bene al momento, magari dopo mi tocca risalire, ho preso tutta la posizione, ricambio. Quando la smotto ricambio il cattolo, ricambio tiranti, ricambio il tubo, ricambio tutto quanto. E hanno durato lo di più già, ti dici, non è che non la butti via così con la roba, no? Dipende, magari durerà pure qualche annetto in più, ma comunque, però adesso già è giovane. Il giovane è giovane, no? 6 anni già. Da 6 anni sono passata. E allora? Io va sempre bene già. Paga. 6 anni che siamo rientrati. Se non sarà 6 anni sarà 5, ma... Giorno un po'. Sì, che stanno cambiando un po' di abitanti, poi tutto il palazzo ha cambiato, tranne noi, quella che abita in fontana, nel mio pianerotto non ha cambiato nessuno, tutti gli altri pianerotti hanno cambiato gli ultimi. Che ha voglia, già dura, ancora, non deve fare strada con l'antenna e quel cavo. Vittorio Volpe ce l'ha 30 anni. Allora, oggi c'è capo grosso. Beh, cosa vuol dire? Il capo si può semplicemente ambare, già vedo il capo grande. di più dura, va sempre bene, cara. Se non le fai muta, vanno sempre bene, no? Non ne hanno problemi. A meno che non si verifichi qualche problema. Però c'è 10 anni. Ma se l'antenna, guarda, se l'antenna non subisce danno, non subisce niente. Avevo lasciato sempre quella. Chissà poi, tra 10 anni ci sono ancora vivo io, non mi siamo arrancato qui. L'antenna dura tanto, dura. Magari il capo puoi cambiare, un sostituto è solo quello, una piccola revisionata, ma problemi secondo me non te ne darà mai. Una piccola revisionata e via, e vamos. C'è un'antenna che bisogna cognizzare, non sarà capisciuta a 20 anni, no, non danno mai problemi. Infatti, ma il capo si è messo bene, non ti preoccupare, non te ne ha problemi. Il capo se entra qualcosa del genere, ok, ma se no, già va bene. È un capo con la doppia calda, tanto, va troppo bene quello lì. Quello è l'RG8, l'RG58. Già da voglia, non fa niente, no? Ma guarda, no, non ne vale la pena. Se l'antenna rimane in 10 anni in perfette condizioni, non ne vale la pena togliere quella e metterne un'altra. Una revisionata, una pulita e via, e vamos, cambio il capo, e c'è sempre efficienza, secondo me. Se no si spetta un radiale, se non subisce nessun danno. Beh, io l'ho messa con i migliori dei modi, perché poi me l'ho fatta come volevo io. Una volta che l'abbiamo scesa, qui è tutta vulcanizzata, tutta fatta bene come volevo, anche il piede è vulcanizzato tutto tanto, completamente. Quindi i cosi tiranti sono messi lupi da tutte le parti, per cui già la storia già è stata fatta bene. Chi c'era? Alice ancora? Alice. Certo, l'interessante è, secondo me, è salire una volta per tutti, e sono salito troppe volte, perché non ero convinto, salivo tutti i giorni per vedere se teneva, mamma mia, riparano che mi veniva. Non preoccupare, no, se ancora va bene, fate il lavoro bene, no, non fate, non ci sale, non si preoccupare. Come stava già girando il coglione, come sta portando. Mi dà tanta ragione, si gioca al Guruburu. Che ore sono? Sono le 11:20. L'importante sarà quello lì, è sempre. Via, stai zio, sarò tutto già figliato nel QSO. Vabbè, buonanotte, già dai, ci risentiamo. Buonanotte, tanto come vi passava? Scappa, dai, buonanotte. Ciao, poi mi nervosisco, dai. Manda bene. Ciao, buonanotte. Vabbè, già lo so io dove andare. Lui ci prova sempre, ma cosa più breve, se non ve la fai, non sia all'altezza, ma è importante a me, non è ancora compresunta, no? Vabbè, dai, ciao, buonanotte. Buonanotte, adesso ci sentiamo.